Capitolo 24. Il libro è uno di quei volumi che si trovano nelle biblioteche. La coperta è in tela rossa. Le lettere del titolo in caratteri dorati. Charles-Louis Philippe Croquignol. Natalia Korczak lo tiene aperto davanti a sé mentre compila un quaderno sottile con il pennino che gratta la carta. Un'occhiata alle pagine, una scritta. Un'occhiata, una scritta. La capo infermiera procede così da una mezz'ora, china sul tavolo di lavoro. Non una scrivania dalle zampe intagliate come nello studio del marito, ma un banco d'alluminio lungo quanto la parete. Anche la stanza ha un aspetto semplice, più essenziale di quella del direttore, che resta la più spaziosa ed elegante di tutto l'istituto. Danny è seduta su uno sgabello, sotto un armadietto pensile a quattro ante. Indossa una vestaglia di lana talmente abbondante che la testa sembra spuntare da un mucchio di stoffa. Nell'ora di pausa che segue il pranzo, quando Natalia non è impegnata con i pazienti, le piace stare in sua compagnia ed esplorare la giungla di oggetti che lei accumula sulla superficie lucida di metallo freddo. Un samovar di peltro a forma di botte, circondato da libri, carte, provette, scatole di medicine. Tre vasi di vetro colmi delle radici di altrettanti bulbi. Forbici da sarta e ritagli di stoffa dipinti a mano. Una lampada ricavata da un fiasco di vetro. Da un paio di giorni però le sue attenzioni sono concentrate sulla radio a valvole che le ha portato Kotick. Danny la prende sulle ginocchia, solleva il coperchio della scatola che la contiene e inizia a smontare una delle tre manopole, ma la distraggono i gesti della capo infermiera. Un'occhiata, una scritta. Un'occhiata, una scritta. «Perché stai ricopiando quel libro?» chiede dopo averla osservata per un po'. «Non lo sto ricopiando. L'originale è in francese e io lo traduco in russo». «Quindi adesso fai la traduttora?» insiste la ragazza. Natalia chiude la stilografica e si rassegna a riporla tra le pagine del volume per non perdere il segno. «No, sono sempre infermiera. Però molti anni fa mi sono guadagnata da vivere anche con le traduzioni. Ora le faccio per passione». «Voi terrestri siete strani», commenta Danny. «Dite di essere il lavoro che fate. Sono infermiera, sono medico. Su una Kun sarebbe impossibile. La gente cambia mestiere molto spesso. Un tempo c'era un ufficio statistico che organizzava le attività, stabiliva il numero di addetti per ciascun settore, pubblicava l'elenco alla sera e ognuno poteva scegliere cosa fare giorno per giorno. Tanto non c'è davvero differenza tra un compito e l'altro. Si tratta sempre di gestire qualcosa». Macchine, organismi, istituzioni. Sono costruiti tutti allo stesso modo. Il capitolo di Stella Rossa dedicato al lavoro, Natalia se lo ricorda bene. Le teorie di suo marito trasformate in un sistema perfetto. Danny lo recita con tale convinzione che si è tentati di assecondarla. Ma Natalia non crede che sia la strada giusta. «Io nella vita ho fatto due mestieri», dice girando la sedia verso di lei. «Assistere i malati e tradurre i romanzi». Entrambi consistono nel prendersi cura, ma ti assicuro che c'è una bella differenza. Se metti un traduttore a iniettare vaccini, rischi la catastrofe. Danny armeggia più di prima con le manopole della radio, come se volesse nascondere l'imbarazzo. Quando hanno chiuso l'ufficio statistico, io ero molto piccola. So che l'hanno spento perché non era più in grado di scegliere le soluzioni migliori. Ne trovava tre o quattro, poi si bloccava. Chiedeva altri dati, ma non facevano la differenza. Perché in realtà aveva bisogno di nuovi programmi. Interessante, pensa Natalia. Parla del mondo descritto in Stella Rossa come se fosse il passato. E del resto quel romanzo è uscito 20 anni fa. Se il socialismo marziano esistesse davvero, non potrebbe certo essere uguale ad allora. La recita di Danny tiene conto anche di questo. Ecco perché Sasha ne è così affascinato. Come avete sostituito il grande ufficio statistico? Danny smette di dedicarsi alla radio. Solleva la testa. Eccola sul suo terreno preferito. «Abbiamo ripreso a discutere, a fare politica, come dite voi. Pensavamo di averla sostituita con il calcolo, ma era un'illusione. Fin da principio, tutte le scelte dell'ufficio statistico, perfino quelle più scontate, avevano alternative dello stesso valore. Anche in una società come la nostra, senza interessi di parte, esistono diversi modi per assicurare il benessere collettivo». Se siamo arrivati a discutere dell'invasione della Terra e dello sterminio degli umani è perché abbiamo prosciugato le risorse del nostro pianeta. e le abbiamo prosciugate perché l'ufficio statistico era programmato così, per considerare impossibile un equilibrio con l'ambiente. L'unico modo per sopravvivere, diceva la nostra scienza, era il continuo sviluppo. Chi si ferma è perduto, ma appunto era la nostra scienza. Finalmente giusta e universale, pensavamo. Ma su Nakun non ci siamo solo noi, e nell'universo non c'è solo Nakun. La porta della stanza si schiude appena. Dallo spiraglio fa capolino un infermiere. «Sono arrivati i conigli», annuncia. «Il fattorino li sta scaricando nell'atrio. Bisogna firmare i documenti di trasporto». Natalia si alza. Dice a Danny di aspettarla, ma la ragazza la segue in corridoio. Una schiera di porte e una di finestre si affrontano da pareti opposte. In fondo alle due file, dove c'è l'ingresso, si va innalzando un muro di sbarre sottili. Natalia parte in quella direzione, Danny subito dietro. Dal portone spalancato sulla via Yakimanka entra l'aria gelida del giorno dei morti. Il fattorino impila le gabbie, ormai sono 4 piani. 23, conta, prima di girarsi e prenderne un'altra. Gli animali si muovono a scatti, disorientati dalla mancanza di un rifugio. I nasi fremono dentro le inferriate. La capoinfermiera domanda dove firmare, ma l'uomo le risponde che ha bisogno del direttore. Natalia si allontana con passi affrettati, ordinando a Danny di tornare in stanza. «Qui fa troppo freddo, rischi di ammalarti!» La ragazza non le obbedisce. 24, scandisce il fattorino. Danny appoggia le dita sulle sbarre di una gabbia. Cerca di sfiorare il muso di un coniglio, ma l'animale saltella in un angolo, tremante di paura. «Cachet, milad, urukuma hil!» sussurra la ragazza. «Ahim le dadi pesbei?» 25, le risponde il fattorino con uno sbuffo di fatica. L'uomo si massaggia la schiena e osserva quello strano ragazzo dai tratti effeminati che piagnucola in una lingua sconosciuta mentre accarezza le grate di ferro. Danny si inginocchia sul pavimento e si abbassa fino a sfiorarlo con l'orecchio, per rivolgersi agli animali nelle gabbie alla base. La maggior parte ha il pelo bianco e nero, ma ce ne sono anche grigi, fulvi e immacolati. 26, ansima il fattorino, e con stupore nota che i conigli si sono messi tutti nella stessa posizione, come inquilini di un condominio affacciati alle finestre. Se ne stanno lì, fermi immobili. Uno di loro, il più grosso, emette un verso da piccione, un gu-gu basso e ingolato. Appena finisce, gli altri battono i denti o le zampe posteriori con un ritmo incalzante. C'è da credere che all'improvviso potrebbero afferrare i chiavistelli e uscire fuori in un'unica orda. «Li avete ipnotizzati?» domanda l'uomo ridacchiando. Un rumore di passi spaventa i conigli. L'incantesimo si spezza. È Bogdanov, seguito dalla moglie e da 3 giovani infermieri. Il fattorino estrae dalla tasca 2 foglie ripiegate e li porge al direttore. Sono stampati su entrambe le facce, ma una è annullata con un tratto di penna. La carta è preziosa, non la si può usare una volta soltanto. Bogdanov fa segno agli infermieri di trasferire i conigli nella stanza adibita allo scopo. Danny si appoggia con la schiena al muro di gabbie, allarga le braccia e le gambe per proteggerle dall'assalto. «Questi poveri esseri non sanno nemmeno cosa li attende. Ho provato a spiegarglielo, ma ci capiamo appena. Non potete ucciderli senza avvisarli!» Bogdanov si sforza di avere pazienza, ma non è la giornata adatta. 27, conta il fattorino, appoggiando la gabbia contro la parete opposta. Sul giornale per l'educazione continua dei medici è uscito un articolo di Nikolai Alansky che stronca le ricerche dell'istituto. Sostiene che i presunti benefici del collettivismo fisiologico sono confermati solo dalle impressioni dei pazienti. Niente esami delle urine, misure di pressione e temperatura, conteggio dei linfociti. Simili studi ci riportano indietro al Medioevo. Quanto livore, a soli 30 anni. E tutto per vendicarsi di una leggera critica, l'aver definito il suo manuale utile ma superficiale e a tratti scorretto. Merita una risposta? Nel caso, bisognerebbe trovare il tempo di scriverla, invece di perderlo a discutere del linguaggio dei leporidi. «Noi non sappiamo parlare agli animali, Danny!» La ragazza stringe i denti amareggiata. «Dimenticavo che per voi sono soltanto cose!» I 3 infermieri si fermano, indecisi sul da farsi o curiosi di assistere alla scena. Bogdanov, con un gesto spiccio, li invita a procedere, partendo dalle gabbie che la ragazza non riesce a difendere. Siamo tutti cose, Danny. Siamo fatte di carbonio, acqua, minerali. Se non si toglie da lì, bisognerà portarla via di peso. Allora perché considerate certe cose più importanti di altre? Perché organizzare significa scegliere, sbotta Bogdanov. Scegliere a beneficio della collettività. La ragazza ansima. Il sudore freddo le bagna il viso. O forse sono lacrime. «È questa la tua tecnologia?» mormora, con gli occhi smarriti. «E se si trattasse di esseri umani? Se la stabilità del sistema imponesse il loro sterminio? Quanti milioni saresti disposto a ucciderne, a beneficio della collettività?» 28, biascica il fattorino, senza perdere il filo, impilando con metodo un coniglio sopra l'altro. «Non essere assurda, Danny», si lamenta Bogdanov. Poi si rivolge a Natalia. «Per favore, accompagnala in camera». La moglie si avvicina alla ragazza. «Adesso basta, rientriamo. Ti stai congelando qua fuori». «Aspettate!» La voce di Vlados che si avvicina con un foglio in mano. 29, farfuglia l'indefesso trasportatore di gabbie. «Non è detto che i conigli ci servano subito», dice Vlados, mentre consegna il foglio a Bogdanov. 10 mesi fa, al pronto soccorso del terzo ospedale di Mosca, un uomo di 45 anni è stato curato per un incidente stradale, investito in bicicletta. Gli esami hanno rilevato nel suo sangue la presenza di strani micobatteri, simili a quelli della nostra paziente. «Pensi che sia Voloch?» domanda il direttore. «Si chiama Igor Pashin», risponde Vlados. «Altro non so. Attendo che ci trasferiscano la cartella clinica completa». «Dobbiamo ricoverarlo qui il prima possibile», dichiara Bogdanov, con la frenesia di chi vorrebbe già entrare in azione. «Prima di partire con il trattamento sulle cavie, bisogna avere gli esami di questo Pashin». 30, conclude il fattorino, impilando l'ultima gabbia con un sospiro di sollievo. Il direttore firma rapido i fogli negli appositi spazi, li ripiega e glieli consegna. L'uomo fa un saluto militare e se ne va. «Nel frattempo, Danny potrebbe occuparsi dei conigli», suggerisce Natalia. «Dar loro da mangiare, pulire le gabbie». «È un'ottima idea», si affretta a dire Bogdanov, mentre la ragazza si inginocchia con sollievo, a bisbigliare qualcosa nelle grandi orecchie degli inquilini del secondo piano.